Ciao a tutti ragazzi, questo è Diabolos in Musica e questo è Necrobar con Planets Collide. Questa ragazzi e ragazze era Planets Collide, tratta da Odd Fellows Rest dei Crowbar, quinto album in studio per la band di Nola. E oggi iniziamo proprio da qui, da questo incredibile album del 1998, per poi inoltrarci più in profondità nella loro discografia. Benvenuti a Diabolos in Musica. Sigla! Allora, ragazzi, innanzitutto ben ritrovati su Radio Wombat, qui a Diablo si musica. Era un po' che non andavo in onda, in diretta, ma purtroppo questa merda di zona rossa e tutto quello che concerne questo Covid di merda mi ha impedito di fare le trasmissioni. Avrei potuto anche farle, ma ho preferito di no. Quindi, ritorniamo, cerchiamo di riprendere il discorso che ho lasciato, non mi ricordo quando, ma l'ultima volta, insomma. Avevo introdotto il sound di New Orleans per introdurre quindi il vero Sludge, dove nacque, perché nacque proprio lì. E introdussi la prima band, diciamo una delle capostipiti del genere, i Crowbar. Avevamo ascoltato i loro primi 4 o 5 CD, se non sbaglio, o 4. Questo era. E adesso ci ascoltiamo il quinto, se non sbaglio, quindi Odd Fellows Rest del 1998. Quindi parliamo un po' di questo CD. Non dirò tanto più di quello che ho già detto, se volete, avete curiosità, mi state ascoltando per la prima volta, potete andare a ripescare le puntate precedenti in cui ho fatto un percorso molto lungo, non lunghissimo, però qualche puntata insomma per introdurre lo Sludge, partendo da Black Sabbath. E appunto nella puntata precedente ho parlato di, iniziavo a parlare di Crowbar e li ho cercato di analizzarli un po' e di dirvi qualche cazzata, insomma. Quindi oggi non mi dilungherò oltre a dire altre cose perché insomma, sono quelle le cose che potrei dire e che vanno dette. Allora, cosa potevano fare i Crowbar dopo aver dato alla luce un album così pesante e demolitore come Broken Glass? Naturalmente, crearne ancora un altro ancora più cattivo. Per fare in modo che quando si parla di musica heavy e di sludge, soprattutto, non possiamo fare a meno di pensare a loro. Quindi di imprimersi ancora di più nella nostra memoria. Con questo Odd Fellows Rest, la band di New Orleans riesce ad evolvere il proprio sound, pur mantenendo le sue caratteristiche principali. Il malessere esistenziale è veicolato da un sound grooveggiante pesante come una tonnellata di cemento. È tutto al posto giusto, ma migliorato. A parte la new entry e la seconda chitarra, Sammy Pierre Duet, chitarrista degli Acid Bats e dei Cotwar, la restante formazione rimane solida. Il grande Jimmy Bauer rimane sul sellino dietro alla batteria, a pestare duro, duro come solo lui sa fare. Kirk Weinstein, il cantante chitarrista, maneggia i suoi infernali riff, sempre con più maestria e originalità, e il grossissimo, ciccionissimo Todd Strange picchia le corde del suo basso come se avesse un martello al posto del plettro. La band innesta anche un po' di melodia nel sound, prima volta nella loro storia discografica che prendono questa via, che sperimentano questo sound, appunto, inserendo un po' di melodia e di un po' di commercialità, ecco, di un po' di più di masticabilità a livello sonoro. Ma anche provandoci, secondo me non ce l'hanno fatta. Però insomma, mettono un po' di appunto melodia, come il brano che avete ascoltato prima, Planets Collide, fantastica canzone, pezzo ballata, come volete voi. E anche qualche influenza Goth Doom di scuola Type O Negative che esplode nel brano December Spawn o Behind the Black Horizon, che tra l'altro ci ascolteremo. Quindi, dette queste due cacatine, adesso vi faccio ascoltare altri due pezzi belli, cattivi e pesanti, tratti da questo Odd Fellows Rest del 1998. E quindi partiamo subito a bomba, ragazzi. Questi sono And Suffer as One and 1000 Years Infernal War. E questi sono i Crowbar. Thank you. E queste erano And Sufferers One e 1000 Years Infernal War, tratte da Oddfellows Rest del 1998. E adesso passiamo a un'altra canzone del CD, si chiama Behind the Black Horizon, che insieme a December Spawn e Planets Collide rappresenta la prima svolta sonora più melodica del. Ciao! La prima svolta melodica del gruppo di Crowbar. E quindi subito, partiamo subito con questa Behind the Black Horizon. Vediamo alle loro spalle i Type O Negative e i Celtic Frost che li guidano. Cazzo duro. We'll be right back. E questa era Behind the Black Horizon, sempre di Oddfellows Rest di Crowbar. E con questo pezzo, con questa bella sonata doom, scazzaculi e fighe tette, cazzi, facce, teste, chiudiamo questo album del 1998 e andiamo avanti. 2 anni dopo, quindi nel 2000, con questo meraviglioso album, i Crowbar inaugurano il millennio. Questo album si chiama Equilibrium, sesto album per la band di New Orleans. A parte lo sconvolgente abbandono di Jimmy Bauer Power alla batteria, la line-up della band rimane solida. Il sound diventa ancora più melodico e ci fa intravedere la strada che la loro musica percorrerà negli anni successivi. E c'è da dire che, secondo me, dall'album dopo di questo in poi la loro musica si incancrenisce un po' troppo e diventa un po' monotona e ripetitiva. Ogni tanto salta fuori un brano che ti mette sull'attenti, ma per il resto, parlo per me, per i miei gusti, non c'è nulla che non sia già stato fatto o suonato, ecco. Però non è facile tenere negli anni una certa qualità sempre al top, soprattutto quando la tua discografia conta 11 album fatti in media 1 o 2 anni dopo l'altro. E non c'è molto da dire altro sui Crowbar, contando tutto quello che ci ho detto, come dicevo prima. E sono una delle più grandi band di sempre e il loro album sono lì in vetta, sono un faro che accoglie i marinai stanchi guidandoli verso casa. E sono un gruppo imprescindibile per lo sludge, per il doom e per chiunque abbia intrapreso quella strada musicale, quell'ideologia musicale dopo di loro, ecco. Ma veniamo a questo cazzo di Equilibrium. Adesso vi faccio ascoltare I Feel the Burning Sun, che apre il CD, che è forse uno dei riff più brutali degli ultimi 20 anni, e Command of Myself. Buon ascolto, signori e signore. Vado a sentire come parte questa, da casa sua. I'm E questa era Command of Myself, canzone tratta da Equilibrium del 2000 dei Crowbar. E quella prima era Feel the Burning Sun con quel cazzo di riff a metà pezzo che stacca i muri dalle case. Vabbè, andiamo avanti. A distanza di un anno esce il loro settimo album, Sonic XS. Sì, vabbè. Sonic XS in its purest form. Scusate il mio inglese, fa cagare il cazzo. Da qui inizia un po' il declino, poi per i miei gusti. Il declino di questa band, la ripetitività, l'apparente a volte palese mancanza di originalità. Nel senso che a volte mi sembra come se quel pezzo o alcuni pezzi li hanno dovuti fare sotto minacce durante una partita di roulette russa, come nel film di De Niro, Il Cacciatore. Perseverano nel loro stile e lasciano poco spazio alla sperimentazione, alla ricerca di un nuovo modo di suonare e di mettere in pratica le loro idee. Ma questo è solo un parere di un povero stronzo. Detto questo, questo stronzo vi fa ascoltare un brano tratto da questo Sonic XS in its purest form del 2001. È un brano tratto dall'album successivo, Life's Blood for the Downtrodden del 2005. Poi salutiamo i nostri amati ciccioni Crowbar e passiamo ad un'altra succulenta, immortale e cazzutissima Yeah Band che ha portato in vetta il sound di New Orleans. Che cazzo sono? Ve lo dico dopo. Intanto vi subite Through the Ashes I've Watched You Burn di Sonic XS in its purest form e il Fall Back to Zero dell'album successivo del 2005, Life's Blood for the Downtrodden. Buon ascolto. Bro. E questa, ragazzi, era Fall Back to Zero di Life's Blood for the Downtrodden del 2005. Vestite, ciao, e Crowbar. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ok, ora passiamo ai cock. Non ai cack. Ai cock, malandrini maledetti, vecchi volpi. I bastardissimi Corrosion of Conformity. Poi abbreviati in COC per velocità. Ben di culto nella vita e nel cielo dipinto di blu. Fondamentali per l'evoluzione dell'hard rock metal, altro che quella merda di Metallica, negli anni 90. I Corrosion of Conformity sono stati decisivi per varie ondate e movimenti, citati alle origini dello sludge, ed è per questo che ci si ficcano bene bene in questa rubricuccia, stoner rock con sempre i Sabbath e il sound degli anni 70 nel cuore. La loro carriera inizia nel 1982, come tanti altri sotto forma di band punk hardcore. A quei tempi era il vicolo più immediato per esprimere un'urgenza, in questo caso la loro, esprimere insomma un loro messaggio politico ben preciso. Anche perché appunto i loro primi album sono molto politicizzati e insomma criticano molto la politica dell'epoca dell'America, eccetera eccetera. I loro primi album mostravano già un lato molto ruvido, metallico e sabbattiano, pur rimanendo in un terreno cacciarone all'hardcore maniera. L'album di svolta decisiva arriva però con l'entrata nella band del santissimo e futuro leader della band, Pepper Keenan, l'unico di New Orleans, infatti si sente tutto. Tagliano completamente i ponti con l'hardcore e si danno all'hard rock, pseudo stoner e al doom. E arrivano i primi gioiellini. E sarà solo l'inizio, perché poi Keenan tirerà fuori dei riff e dei brani che oggi sono praticamente storia. L'album di cui vi sto parlando si chiama Blind, del 1991. Album completo e definitivo, che si colloca negli anni in cui il crossover tra generi stava dando vita ai suoi capolavori. Basta pensare agli album dei Suicidal Tendencies o quelli dei Faith No More. Insomma, Blind del 1991 è un grande piccolo capolavoro. E quindi ascoltiamocelo questo terzo CD dei Cock, dei Corrosion of Conformity. Vero inizio della band. A gusto mio, naturalmente. Tratte da Blind 1991, queste sono These Shrouded Temples, che apre il CD, è quasi un intro, e Damned for All Time. E questi sono i Corrosion of Conformity. Diteli ciao, benvenuti. Porca madre. Madonna, sì, ve li sparo forte. Sentite Black Sabbath, sentite. Onnipresenti. We'll be right back. Bellini, eh? E questi erano i Corrosion of Conformity, Condemned for All Time, tratta da Blind del 1991. Adesso il prossimo pezzo, che fa sempre parte di Blind, dello stesso CD, passa alla voce Pepper Keenan, che vi dicevo è il futuro leader della band, The Corrosion of Conformity. E qui è praticamente la sua prima manifestazione alla voce, al microfono. Prima volta prende il posto lì, canta, secondo me è bellissima, è uno degli esordi più belli che si possono avere in questa tipologia di musica. Ma bando alle ciance, basta di stronzate. Questo pezzo si chiama What With A Bullet, più esplicito di così. Questa era Vault with a Bullet, bellina, eh? Molto meglio secondo me la voce Pepper Keenan su quelle chitarre, su quel sound di sottofondo. E infatti non per niente diventerà il cantante della band. Quindi con questo vi ho anticipato cosa ascolteremo nei prossimi minuti insieme. Adesso andiamo avanti con un altro pezzo, l'ultimo che vi faccio ascoltare di questo Blind del 1991. E poi si passa al primo vero capolavoro di album del Corrosion of Conformity, Deliverance. Ma prima ci ascoltiamo questa Great Purification di Blind. Yeah! Bene, con questa Great Purification tratta da Blind del 91, dei Corrosion of Conformity, chiudiamo l'album e andiamo avanti. Passano 3 anni, la formazione praticamente si stravolge, a parte Keenan che passa la chitarra e mi sa che solo il bassista rimane. Il bassista o forse anche l'altro chitarrista, non ricordo esattamente. Però insomma, nel 1994, con tutta la formazione cambiata, quindi con Keenan alla voce, la chitarra ritmica, anche solista, sfornano Deliverance. E il Deliverance è il loro album praticamente che tutti conoscono, che li ha presentati al mondo, gli ha, diciamo, dato un po' di successo, ecco. Corrosion of Conformity, c'è da dire che tutte queste band non hanno mai raggiunto un successo globale o soltanto come singoli, come con i loro progetti paralleli, tipo i Down, che incorpora praticamente tutte le band di New Orleans e ne tira fuori un sound, ragazzi, che infatti io, i Down è un gruppo dove io voglio la fine di questo percorso. Ne parleremo più là. Però insomma, Corrosion of Conformity, Crowbar, parte qualche album così, non ha mai raggiunto il successo, insomma, globale, mondiale, ma non ce ne frega un cazzo perché comunque sono rimasti nella storia e tutti li conoscono. Chi sta nel genere, nel giro, li conosce, insomma. Bene, apriamo questo Deliverance con un loro pezzo storico che sicuramente avrete sentito anche se siete dei neofiti del genere o sicuramente qualche parte l'avete sentito risuonare, canticchiare o fischiettare, non lo so. Questo pezzo si chiama Albatross ed è tratto da Deliverance, appunto, del 1994, dei Corrosion of Conformity. E questo è un inno allo stoner rock e a tutto ciò che ne consegue. Lord, what a waste of time. Then I come and get you. Questa era Albatross dei Corrosion of Conformity, tratta da Deliverance del 1994. Dai, l'avevate sentita già questa canzone da qualche parte? No? Frate. E che dire? Pepper Keenan è stato un acquisto. No, è un bravissimo cantante, sfornatore di riff, un musicista della Madonna. Grande inventiva, originalità e intuizione musicale. Gran bel personaggio musicale, sì. C'è da dire che prima non ve l'ho detto, ma da quest'album in poi, insomma, i Corrosion of Conformity abbandonano un po' il messaggio politico, non sono più molto politicizzati. E se la cosa non mi dispiace affatto, nulla che dire, mi sono dimenticato. Ah, come ho detto prima, i Corrosion of Conformity sono la band che i Metallica avrebbero voluto essere. Ma non sono mai stati. Beccatevela nel culo. No, a me piacciono i Metallica, dai, i primi album. Poi gli altri fanno schifo al cazzo. Andiamo avanti con questo Deliverance 1994. Secondo pezzo, secondo giro, ragazzi, ragazze. Clean My Wounds. Questa era Clean My Wounds, tratta da Deliverance, sempre, dei Corrosion of Conformity. Bene, in questi 10 minuti, dai, ci spariamo un altro pezzo di questo CD. E poi vi sparo come sempre una chicca che non c'entra un cazzo di niente, o quello che stiamo ascoltando, né col genere. Dai, ci ascoltiamo 7 Days, 4 minutini, 5 minutini, ce la dovremmo fare. Vediamo un po'. Questo è 7 Days, ragazzi. Bene ragazzi, per oggi con questa 7 Days The Corrosion of Conformity, che va in dissolvenza al di sotto della mia voce di merda, chiudiamo qua la puntata per oggi. Continuiamo giovedì prossimo, parlando sempre di Corrosion of Conformity, penso solo di loro perché la loro discografia è bella lunga ed è tutta fighissima. Bene, in questi ultimi minuti vi lascio a questa chicca, come dicevo prima, che vi ci ficco sempre, che non c'entra un cazzo. E ho deciso di mettere un pezzo di Tom Waits, tratto da quel bellissimo spettacolo spettacolare fuori di testa che fece negli anni Ottanta, mi sembra, Big Time. E il pezzo si chiama Telephone Call from Istanbul. Vi auguro buona giornata, buona serata, alcolizzatevi, scopate, fumate, fate che cazzo volete, fate bravi. Spero vi siate divertiti, divertiti, pace e amore, a giovedì prossimo. Lasciamo la parola a Tom Waits. Share my head, get me out of town with my balls.